Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Dal Groove Master Studio, buonasera a tutti da Gegè Telesforo e dal nostro Francesco Tromba. Buonasera. Puntata numero 236 del Soundcheck, prova del suono, ovvero il suono della musica di Radio 24. Mio caro Francesco Tromba, ti faccio dei complimenti, non te li faccio io personalmente perché non me la sento, ma ti arrivano dei complimenti da tuoi corregionali, arrivati dei complimenti all'indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it. Ah, grazie a tutti. Lo sai perché fanno i complimenti? Per quale motivo? Non per la musica che passiamo, fanno i complimenti, ha detto meno male che c'è Francesco Tromba che ogni tanto ricorda le prelibatezze culinarie della nostra regione. Vabbè, è sempre un punto che va ricordato. E invece mi piacerebbe che i tuoi corregionali parlassero anche della bella musica che suoniamo. Ma vuol dire che ci ascoltano, quindi ascolteranno anche la musica. Ah, tu dirai che magari a livello subliminale certi messaggi arrivano. Sì, per forza. Spero proprio di sì. Allora, intanto voglio anticipare che nella seconda parte di oggi avremo ospite una mia carissima amica. Hai mai incontrato Joyce Yule? No, però ho letto che ha fatto la modella, quindi immagino. Ah, sei interessato? Adesso quando arriverà capirai di che cosa stiamo parlando, cioè di una bellissima donna, una bella voce che ha registrato un disco nuovo intitolato Welcome to My World, ma ne parleremo con lei nella seconda parte, perché invece questa prima parte io vorrei dedicarla a una delle mie vocalist, compositrici e donne preferite. Chi sarebbe? Da qualche anno a questa parte. Mio caro, mi dispiace per te, io ti avevo detto di ascoltare con attenzione questo album intitolato Perfect Animal, e quindi di chi sto parlando? Di Becca Stevens. Di Becca Stevens. E tu mi hai risposto: sì, l'ho sentito il disco, l'ho trovato un po' pop. Guarda, me la sono presa. Ma non era un insulto, è semplicemente rispetto a quello precedente. Mi dispiace, ed ecco perché io oggi voglio suonare il più possibile Becca Stevens, perché voglio anticipare agli appassionati di musica di Radio 24 il talento che si ritrova anche in questa recentissima produzione di questa artista a tutto tondo. Cioè, stiamo parlando di una ragazzina che viene da una famiglia di artisti, il padre polistrumentista, la mamma insegnante di canto, addirittura Becca Stevens già a 2 anni suonava, cantava e ballava nella band di famiglia, a 2 anni, ma ti pare possibile? Una grandissima, cioè proprio prematura. Laureata in musica alla New School, ha studiato chitarra classica, ha preso con tutti gli onori anche un master in canto e composizione jazz. Per questa cantante che porta nelle vene anche il suono tipico della sua regione, della sua terra, quindi insomma una venatura abbastanza folk americana. Sì, è del North Carolina. Ecco, e vedi che le cose le sai? Ma è bravissima, su questo non c'è nessun dubbio. Ma ti credo, ma guarda che è una musicista completa. Dire che ha fatto un disco secondo un po' me più è uno dei migliori talenti in circolazione. Sicuramente, ma dire che ha fatto un disco un po' più pop non è assolutamente un insulto da parte mia. Io non l'ho trovato assolutamente pop, mi dispiace, ma possiamo stare qui a discutere tutto il tempo che vuoi. Invece io direi di passare subito la traccia con la quale lei ha fatto scoprire ai suoi fans questo nuovo album, lo ripeto, intitolato Perfect Animal, il suo terzo album, poi decine di collaborazioni importanti, sempre con la sua band, musicisti incredibili. Sì, tra l'altro ricordatevi che è un'anteprima, perché il disco dovrebbe uscire il 1° di giugno, se non sbaglio, in Italia. Quindi... Certo, noi però ce l'abbiamo. Perché? Perché siamo avanti. Non perché siamo avanti, perché me lo ha mandato lei, ecco perché. Scusami, ma allora le connection internazionali del soundcheck non hanno la loro importanza secondo te? Ma non bisogna rilevarle sempre. Ah, tu dici? Dobbiamo stare coi piedi per terra. Va bene, allora questo è il talento di Becca Stevens. Oggi parliamo di lei, parliamo di questo album meraviglioso, una composizione di Frank Ocean rivisitata da Becca Stevens Band, Thinking About You. Oggi celebriamo il talento, la meraviglia che ci regala Becca Stevens con questo album intitolato Perfect Animal, titolo che poi ha preso da una sua composizione originale presente in questo album, che però come titolo ha The Imperfect Animals, gli animali non perfetti. Sì, la sua idea è quella appunto di mettere in contrasto l'istintività e la razionalità. L'istintività che è propria degli animali, come ben sappiamo, perché ovviamente non hanno l'idea di perfezione, ma quella più che altro di utilità, di sopravvivere e di andare avanti. Eh sì, una condizione che lei vive nel quotidiano, perché anche nelle relazioni con gli amici e con i colleghi ha questa doppia faccia, no? Questa doppia personalità, istinto e razionalità. Un bel caratterino deve avere Becca Stevens. Immagino di sì. È un bel cervello, comunque musicista, io l'adoro, guarda. Dai, è fenomenale. Io proprio non vedo l'ora di incontrarla e spero che qualche promoter italiano abbia il buon gusto di invitare un'artista meravigliosa con una band eccellente, perché i musicisti che lavorano con lei sono top class. Sì, e purtroppo il suo nome non gira tantissimo in Italia. Ma noi lo faremo girare. Ci proveremo. No, e lo stiamo già facendo. Allora, intanto abbiamo questa anteprima di Perfect Animal e tra l'altro lei si diverte molto non solo a scrivere musica originale, ma anche a realizzare arrangiamenti originali di composizioni di altri autori. Lo abbiamo ascoltato Frank Ocean nella sua versione, adesso invece ascoltiamo You Make Me Wanna di Usher. Sì, come lei stessa ha dichiarato, le piace tantissimo prendere dei brani di altri artisti e poi riarrangiarli, perché è come... Ha fatto una metafora, è come se lei dipingesse un dipinto di un altro artista, però con i propri colori, quindi dando la propria personalità a questi brani. Adoro questa pittrice. Before anything, the one I'm with, anything, relationship, before anything. This is what you do. Think about a ring and all the things that come along with you make me. Soundcheck. Il suono della musica. Viene celebrato in Perfect Animal di Becca Stevens con la sua band Higher Love. Questa è una composizione del grande maestro Steve Winwood per la voce e gli arrangiamenti di un'artista contemporanea fra le più quotate in questo momento a New York e negli Stati Uniti. Tra l'altro in tournée, però credo abbia alcune date in Europa, ad Amsterdam al Conservatorio. Vedi, sì, esatto, gli olandesi? A luglio verrà in Europa. Chissà, magari una scappata ad Amsterdam per andare a incontrare Becca Stevens. Perché no? Chissà, magari quando sarò a New York, magari lei si trova lì, perché quando fa i concerti in America? Si fermerà per un mese, quindi fino al 2 giugno sarà in concerto ad esempio a Los Angeles, a Santa Cruz, a Seattle, a Eugene e a Berkeley. Poi si ferma per un mese e verrà poi in Europa il 6 di luglio per fare questi concerti al Conservatorio di Amsterdam. Sì. Pensate, allora Becca Stevens ha lavorato tantissimo per realizzare Perfect Animal, un lavoro molto complesso, si sente proprio anche dall'arrangiamento delle voci, la ritmica. Insomma, non è un disco, ecco, è un disco per palati fini, diciamolo. Sì, pure. È... Tu lo hai definito pop così, è un disco no, pop. No, è più pop rispetto a quelli precedenti, nel senso che cerca di allargare un pochettino la cerchia. Secondo me no, Tromba, hai sbagliato tutto in questa occasione. Mi dispiace, io ti voglio bene, però guarda, ti do i compitini a casa: ascoltare almeno 10 volte tutto l'album di Becca Stevens e poi riportarmi una recensione dettagliata. Ok, dai, signor... c'è una complessità negli arrangiamenti, armonie, tensioni armoniche complesse. Guarda che è un album bello tosto, eh? E allora lo riascolterò. Lo devi ascoltare, cerca di essere un musicista per una volta nell'ascolto. Comunque ho letto che sta facendo una grandissima opera anche di promozione, con delle idee molto interessanti. Come ad esempio sta organizzando delle jam nei parchi pubblici, con tutti i musicisti che vogliono raggiungerla possono suonare con lei e con i suoi musicisti, anche delle sorta di date segrete a casa di suoi fan. Sì, molto interessante. E per scoprire anche altre attività collaterali legate a questo disco e a Becca Stevens, forse gli amici potrebbero andare a visitare le pagine del sito beccastevens.com, che sono linkate poi con altri siti che propongono addirittura un merchandising che non ho mai visto neanche per le grandi star. Eh sì, ormai sta diventando, soprattutto in America, questa cosa di diventare degli oggetti proprio di culto, anche di oggetti di fashion. Sì, ma anche oggetti personali autografati. Sì, sì. Qualsiasi cosa. Stanno cercando nuove vie del marketing. Allora chiudiamo questo spot su Perfect Animal di Becca Stevens. Ve lo ricordo, l'album è stato probabilmente pubblicato da pochissimo negli Stati Uniti e mi auguro che in Italia la casa discografica, che tra l'altro negli Stati Uniti è la Universal, no? Sì. Ecco, quindi dovrebbe uscire anche in Italia fisicamente, però si può già fare il download attraverso internet. Sì, si può preordinare, perché dal primo di giugno sarà disponibile in Italia. Siamo troppo avanti, tromba. Però se andate su Amazon.com potete farvi spedire dall'America. Ecco, esatto. Allora, Becca Stevens Band con Tyler. Soundcheck. Il suono della musica. Animale perfetto celebrato dal nuovo album di Becca Stevens Band al blues fosforescente, Phosphorescent Blues dei Punch Brothers, quattro musicisti meravigliosi guidati dal mandolinista Chris Steele, che viene dalla musica classica e col suo mandolino suona di tutto, dal jazz al funk, per poi riunirsi con i Punch Brothers e realizzare questo suono che ci riporta proprio ai pionieri americani. Sì, è un contrasto forte, diciamo, magari noi siamo abituati a pensare all'America come New York e Los Angeles, poi invece ci sono i Punch Brothers che ci riportano all'essenzialità, una musica, diciamo, calma, cioè essenziale, minimal, comunque bellissima. Ma complessa. Complessa, sì. Sotto tutti i punti di vista, arrangiamenti, armonicamente, non è facile. Tu immagina una band che vuole fare le cover dei Punch Brothers. Penso che non possono ci diventare pazzi. Sì. Lo so, musica complessa qui al soundcheck, ma molto piacevole. Ecco, questa è una cosa bella. È quello che diceva Irving Berlin: la mia musica è semplice, deve arrivare a tutti, ma non deve essere mai banale. E tra l'altro il compositore Irving Berlin non sapeva suonare. suonare. Aveva un pianista che trascriveva tutte le sue idee. Pensa tu che assurdità. E ha scritto alcune fra le composizioni immortali del songbook americano. Sì, degli standard indimenticabili. Immortali. Allora, questo è il soundcheck di Radio 24. Fra pochissimo con noi ci sarà Joyce Yule, nostra amica, ottima vocalist americana, nata a Harlem. Sì, a le voglio Spanish chiedere, Harlem. Spanish Harlem, le voglio chiedere, perché in quel periodo, quando è nata lei, Harlem non era una zona frequentabile di New York. Ora invece è diventato un posto abbastanza alla moda. Ci sono tanti artisti che vogliono andare a vivere. Ho anche amici e colleghi americani che hanno comprato casa a Harlem. Sì, ormai è diventato prima era la periferia, adesso è proprio il centro della... È tornata splendida come negli anni 30, col Cotton Club, il periodo di Duke Ellington e Count Basie. Meno male, sono contento. Sì. Cose che succedono solo in America? No, anche in Europa. Anche in Europa? Italia forse no. In Italia ci sono dei posti bellissimi che però devono essere recuperati da anni e stanno ancora lì a marcire. Perché noi siamo lenti. Perché siamo italiani. Siamo lenti. Siamo lenti, dici tu, meno male. Va bene, fra pochissimo Joyce Yule al Soundcheck Radio 24. Intanto direi, allora continuiamo con i Punch Brothers per ricordare il talento di questi ragazzi. Il brano si intitola Julep, facciamo poi una pausa perché arriva l'informazione di Radio 24 e poi Joyce Yule al Soundcheck. I died happy in my sleep. I died happy in my sleep. Our children around. Soundcheck. Il suono della musica. Eccoci di nuovo in contatto dal Groovemaster Studio per la seconda parte del soundcheck di oggi. Felice di presentarvi, così come abbiamo annunciato nella prima parte, la presenza nel nostro studio di una mia amica, formidabile cantante e anche una bellissima donna. Quando si alzerà alla fine dell'intervista, mio caro Francesco Tromba, ti sentirai in imbarazzo perché ha un'altezza tipica da indossatrice. In realtà già quando è entrata mi sono un po' sentito in imbarazzo, anche perché non sono altissimo. E allora vado a introdurvi la voce e la bellezza di una mia amica, Joyce Yule. Welcome at the soundcheck. Thank you, JJ. Ciao, ciao. Come stai? Ti trovo in grande forma. Sto benissimo. E io ho fatto un bel favore oggi perché ho messo le ballerine a posto. Hai capito? Tu puoi immaginare col tacco da 9 che diventa un granatiere di Sardegna. È un'illusione, sempre che ho le gambe lunghe. Sono contentissimo di vederti e anche di presentare con te questa nuova pubblicazione intitolata Welcome to My World, benvenuti nel mio mondo. Yes. Un mondo che è fatto di musica, ma è fatto anche di tante emozioni, sì, riportate in questa pubblicazione, emozioni che hai vissuto negli ultimi anni. Sì. Intanto credo che per un'artista americana vivere in Italia, non so se è facile, difficile, complicato, no. Come vivi la tua italianità? Diciamo, all'inizio è stato difficile ovviamente perché venendo da una grande città come New York, mi sono trovato a Milano come indossatrice, è stata un'esperienza anche molto divertente ma anche tante volte molto difficile per la differenza di cultura. E dopo un po' mi sono inserita, io sto benissimo in Italia. Ti sei inserita nell'ambiente e soprattutto nell'ambiente musicale, sì. Hai lavorato con alcuni fra i nomi più prestigiosi del jazz italiano e non solo del jazz, hai collaborato anche con grandi nomi del pop prestando la tua voce in cori, pubblicazioni. Sì, discografica, corista, dicendo. Sì. Tu vieni da East Harlem. Yes. Che cosa ti porti dietro della tua infanzia? East Harlem, East Harlem d'estate. East Harlem d'estate, dove si alzava di mattina a sentire tutta la musica latina, i congos che andavano. È la stessa quartiere dove è nato anche Tito, il grande Tito Puente. E per me l'esperienza di crescere a East Harlem mi ha aiutato tantissimo anche musicalmente, perché a parte della musica latina si sentiva tutti i generi di musica. Ecco, noi parliamo spesso di New York e quando ricordiamo Harlem del periodo, quello sì. della swinghiera dove c'erano i club, sì. Poi c'è stato un momento decadente, io mi ricordo che quando ero a New York, a Harlem, non ci potevi andare se non eri accompagnato magari da bodyguard o sì. con dei personaggi tipici del posto. Adesso certo. però Harlem è rifiorita. Completamente cambiato, Harlem ormai è diventato più europeo. Lì italiani, francesi, tedeschi. Harlem ormai è diventato un grande melting pot per tutte le diverse diciamo nazionalità. E quindi è bellissima. Allora, quando andrò a New York, fra pochissimo, andrò sicuramente a East Harlem sì. e voglio andare a vedere proprio dove sei nata e cresciuta. E io? Allora, intanto Francesco, direi velocemente di raccontare la storia di Joyce agli amici di Radio 24 e poi presentiamo subito un brano tratto da Welcome to My World. Sì, come abbiamo detto è nata a New York, nello stesso quartiere di Tito Puente, e ha iniziato come modella, però poi ha trovato la sua strada nella musica e nel canto. Il suo portfolio musicale è composto da jazz, blues, soul e gospel. Si è trasferita in Italia da diversi anni e vive a Milano. Ha collaborato con artisti di fama nazionale e internazionale come Randy Crawford, Ron, Laura Pausini, Elio Le Storie Tese, Ronan Keating, come corista con Renato Zero, Umberto Tozzi, Antonella Ruggero, ma anche con artisti internazionali come Didi Bridgewater, Paolo Conte, Gloria Gaynor e Donna Summer. Il suo stile ripercorre quello delle grandi vocalist del passato come Sarah Vaughan, Etta James, Nina Simone, la sua preferita in assoluto Phyllis Hyman. È qui per parlarci del suo ultimo disco, Welcome to My World. E allora, prima di farci raccontare da Joyce che cosa ha combinato in Welcome to My World, direi di ascoltare subito qualcosa, se non ti dispiace, Joyce, Running for Your Love, qui al soundcheck di Radio 24, Joyce Yule. Look into your heart and tell me what you're thinking about me. Look deeper and tell me what you see. I'll make a lover do the craziest thing. It's like a game of chess. Need concentration, fully aware. Can't blink, 'cause I gotta beware. Soundcheck, il suono della musica. And I got his ecstasy. She knows something more than me. E questa è una novità per il soundcheck, si intitola Hollywood Girl, Call di Genova. Questo signore che viene dalla Berklee School of Music, dove si è formato musicalmente, ma che ha anche collaborato con grandi artisti. Sì, ha anche aperto i concerti di grandi artisti come Michel de Gaiosello, anche Kurt Elling, Patricia Barber, quindi un grandissimo strumentista, oltre che anche un poeta. Ecco, noi lo teniamo d'occhio allora. Sì, molto bravo. Molto bravo. E nostra ospite Joyce Yule per presentare Welcome to My World, direttamente da East Harlem si sposta a Parigi, poi approda a Milano e qui praticamente ti fai notare per questa vocalità che spazia dai classici del soul, la venatura gospel, il soul ti piace, ne abbiamo parlato a lungo, sì. Io mi ricordo che un po' di tempo fa, forse poco più di un anno fa, sì. Ci siamo visti qui sì. e abbiamo ascoltato sì. tantissima musica. Esatto. E abbiamo degli artisti che ci fanno impazzire, tipo da Donny Hathaway, vabbè, poi Donny Hathaway, a tutti gli altri. Donny Hathaway, sai, io sono fan tipo di Earth, Wind & Fire, sono fanatico di Earth, Wind & Fire, dei grandi James Brown, tutti i soliti, diciamo, i soliti sospetti nella musica soul. Ma volevo notare, tornando sulle cantanti, lui ha nominato una, si chiama Phyllis Hyman. Phyllis Hyman, che non è tanto conosciuta in Italia, ma io devo dire, è meglio di andare indietro un po', ascoltare un po' della a riscoprirla. Prendi nota, Tromba, perché la vogliamo celebrare prestissimo qui al Soundcheck. Senti, dimmi una cosa, ma tu avrai notato una cosa che mi piace degli artisti americani, soprattutto di quelli contemporanei, è che hanno un background musicale molto vasto, cioè si portano dietro nel DNA quello che hanno ascoltato da bambini, poi hanno fatto gli studi, sono avvicinati al jazz, tutti hanno frequentato più o meno le chiese battiste, quindi hanno il gospel nel sangue, e questo tipo di formazione si sente, si risente sempre nella loro musica. Certo. In Italia invece è un po' più a compartimenti strani, cioè il musicista di jazz suona solo jazz e non segue tanto l'R&B. Altre Hai notato genere. Questa cosa? Che ne pensi? Sbagliato. È sbagliatissimo, perché secondo me frequentando altri generi di musica, anche suonando un genere in particolare, aiuta tantissimo di essere più aperto verso altri generi di musica. Quindi musicalmente versatili. Sì, esatto. Io ho notato tanto qui in Italia, jazzista è proprio jazzista e basta. Ascoltano soltanto è integralista. Sì, no, ma mi fa impazzire questa cosa, perché io, a me piace anche la musica rock, ad esempio. Non è, diciamo, preferita, ma ci sono alcune cose che mi piacciono. E quindi sei d'accordo con noi? Noi qui al Soundcheck suoniamo di tutto, ci suoniamo tutto ciò che perché ci piace. Si chiama la musica, e musica è, diciamo, music includes everything, every type of music. E questo melting pot culturale si risente anche in questa pubblicazione, insomma, ci sono varie venature, varie influenze, e poi, lo dobbiamo dire, anche la collaborazione con una band molto accreditata in Europa e nel mondo, che è quella guidata dal sassofonista Timo Lassi, che ti è stata messa a disposizione dal tuo producer, perché hai firmato un contratto con Schema Records. Quindi voglio anche salutare il nostro amico Luciano Cantone, che è in disparte e sta non so che cosa sta facendo, sta guardando tutta la nostra discografia, poi gli faremo una perquisizione. Quindi contenta di lavorare per la Schema? Sì, molto, molto contenta. Ormai Luciano è diventato non soltanto produttore, ma tipo un fratello. Lui mi chiama la sorella più grande, non so perché, ma va bene, perché io sono alta. Forse per quello. Allora, ci vuoi presentare Too Soon You're Old? Cioè, si diventa vecchi troppo presto. Sì, ma va bene. Too Soon You're Old è un bellissimo pezzo in cover di una cantante, diciamo, negli anni 70, si chiama Penny Goodwin. E ha la classica suono del tipo i film Blaxploitation. E questo tipo di suono mi piace tantissimo. Joyce Yule al Soundcheck di Radio 24. Take no rights from any stranger. Watch out, watch out, watch out for the worthless few. Don't socialize with fancy guys. Soundcheck, il suono della musica. Con me un brano scritto a quattro mani dalla nostra ospite Joyce Yule con il suo producer Luciano Cantone, quindi una bella collaborazione, vi siete divertiti a realizzare questo disco ma anche a scrivere musica insieme. E, abbiamo detto che l'album lo hai registrato in studio con questa band finlandese diretta da Timo Lassi. Come mai ti sei rivolta a questi musicisti, perché questa idea, visto che tu avevi anche collaborato con grandi musicisti italiani? Certo, e io stavamo cercando un certo suono, anche, diciamo, Come With Me ha un suono anche un po', diciamo, un pochettino bebop, è proprio stile di Timo, che stavo cercando, e quindi Timo andava benissimo, lui e il suo band, per questo disco, perché hanno tirato fuori tutte le cose di quali io stavo cercando. Dove avete registrato? Lì è dalla Schema Records. Ah sì, eh? Yes. Quindi avete fatto venire la band in Italia? Sì, loro sono venuti qui in Italia. Abbiamo fatto... Credo felicissimi, come tutti i musicisti che arrivano da fuori. No, perché qui. Abbiamo anche fatto la serata lì a Blue Note insieme. Dov'è la base operativa della Schema? A Milano. A Milano. Sì. Allora, Tromba? Sì, ho una domanda sulla copertina del disco. Okay. Che... Tanto descrivi la copertina. Sì, c'è una tua foto, sì, molto bella, però grazie, non sei un pochettino imbronciata. Mi sembra che non rappresenti il tuo mondo, perché mi sembri una persona molto solare, quindi come mai hai scelto questa foto? Foto? Allora, praticamente, quel fotografo, diciamo, non lo so, il mio mondo è un po' complicato, perché io dal vivo sono molto, sembro molto allegro, ma io ho i miei momenti molto, sono molto anche molto misteriosa, e secondo me questo copertino mi rappresenta, perché io non vi do tutto subito, sembra, ma non è sempre così, quindi la foto secondo me mi rappresenta proprio... Al 100%. Yes. Allora, il prossimo brano che ascoltiamo invece rappresenta un altro artista, che è Jean-Paul Blouimunic, leader degli Incognito, che ha realizzato un album da solo. Sì, sta per uscire, non so se è già uscito in realtà. Questo è il singolo di questo disco. Vabbè, come sempre anticipiamo, no? Sì. Allora, il brano si intitola Saints and Sinners, Bluey, al soundcheck di Radio 24. Who am I to say? Who's wrong? Who's right? Got to have peace and love. Does anybody know? Can anybody say? Does anybody know? Can anybody say? Soundcheck. Il suono della musica. Looking out. E lo ripeto, si intitola Welcome to My World, il mondo di Joyce Yule, qui al soundcheck di Radio 24, Late Arise, il titolo di questo brano che ci racconta ancora una volta il mondo sonoro, sì, e la passione di Joyce per tutto quello che ha metabolizzato come artista nella sua vita. Allora, sì, un album realizzato, come dicevamo, con il sassofonista Timo Lassi, che è venuto in Italia con la sua band, però non so adesso se con i concerti dal vivo ti organizzerai con Timo Lassi. Speriamo, o stai organizzando, sì, una band italiana? No, adesso italiana. Diciamo, per forza devo organizzare una band italiana per fare... Beh, i musicisti non mancano, lo sai, no? No, assolutamente no, assolutamente no. Non sarà sempre facile portare Timo e tutta la banda alla Finlandia, certo, ma comunque ho già in mente i musicisti. L'organizzazione. Certo, Beh, ci stiamo avvicinando alla stagione estiva, quella, sì, dei grandi concerti, dei grandi eventi, quindi se gli amici volessero seguire la tua attività concertistica, c'è un sito di riferimento, hai un sito internet? C'è il mio sito, sì, infatti stiamo facendo un nuovo sito, ma comunque possono sempre fare riferimento al vecchio sito, che rimarrà lì un pochettino ancora. Dimmi, allora, questo è il CD fisico presente nei migliori e nei peggiori negozi di dischi, mi auguro, ma c'è anche una pubblicazione digitale, si può scaricare da iTunes, Amazon, tutti i soliti. C'è anche su Bandcamp. Yes, ottimo. Yes, we're on Bandcamp. E tu vai a cercare qualcosa di speciale su Bandcamp, lo sai che noi troviamo cose veramente belle. Sì, ci sono le cose interessanti su Bandcamp, molto. Allora, noi siamo ai saluti, mio caro Francesco. Avevi qualche altra notizia, informazione, una domanda per Joyce? No, me le hai bruciate tutte. Ecco, sono fatto così, va bene. Allora, noi vi salutiamo proponendovi un'altra pubblicazione speciale con protagonista Daryl Reeves. Il brano si intitola Every Time I See You con la partecipazione di Gwyn Bunn. Album molto bello, poi ne parleremo nelle prossime puntate. Sì, è in realtà del 2012, però è un disco bellissimo, l'ho scoperto per caso su SoundCloud. Molto ecco, bello. Hai capito come fa? Passa le giornate intere su internet. Ho capito. È il mio ricercatore preferito. Eh sì, ma è uno che deve stare su internet per ricercare le cose. Assolutamente. Joyce, guarda, ti voglio thank bene you, in bocca you, al lupo per you. Tutto thank vieni so a much. Trovarci quando vuoi. Senz'altro. E speriamo di rivederci anche su un palco, perché ci sì, siamo infatti, divertiti diverse no, questo volte è vero, insieme. questo è vero. Allora l'appuntamento è a domani. Ci siamo domani? Sì, certo. Allora domani, domenica, quindi torniamo per il doppio set 15:30 e poi 19:15. Domani parliamo del Soundcheck Airplay Award. Sì, ci stiamo divertendo parecchio. Ecco, sì, ne parleremo, sai, perché alla fine della stagione andremo a premiare gli artisti presenti nella nostra trasmissione, quelli più, come dire, votati da radioascoltatori e anche da una commissione di esperti. Che bello. Va molto bene. Interessante. Joyce, ti abbraccio forte, a thank tutti voi you. Buona serata e buona musica da Gigi Telesforo e da Francesco Tromo. And I'm Joyce Ilenio. Thank you and see you soon.